e scappate di casa. Siamo alla fine della fase del trattamento d'emergenza sanitario obbligatorio e ora fase 2, la vendetta. La fase 2 è iniziata, ma abbiamo perso il lavoro, e il nostro lavoro di cura è raddoppiato, un sovraccarico di lavoro domestico, per alcune smart working e lavoro domestico e per altre ancora le più fortunate lavoro domestico, smart working e anche la DAD, la didattica a distanza. Segui figli, scarica file, stampa file e falli studiare. Bene, e ora questa presunzione mostra come ormai il lavoro di riproduzione sia perfettamente funzionale a quelle che sono le esigenze di quelli che espandono il virus del capitale. Ecco, allora che cosa succede ora? Noi dobbiamo trovare il modo di portare avanti la nostra cura. Perché c'è chi stava a casa prima e ci sta anche adesso, c'è chi invece si è vissuto all'impossibilità di scegliere tra la salute sua e dei suoi cari e il lavoro, dovendo continuare a lavorare come o più di prima. Pensiamo alle infermiere, ai dottori, alle dottoresse, ma spesso con meno di tutela di prima o senza tutela alcuna. C'è chi si è ritrovata sbalzata nella dimensione virtuale e quindi smart working, non si sa bene con quali diritti e quali tutele, ma questo poco importa, data l'assenza totale di regole e magari anche con i figli di cui occuparsi a casa. C'è chi invece il lavoro lo ha perso e non si sa fino a quando, come le lavoratrici dello spettacolo o le guide turistiche, ma anche le lavoratrici a nero. C'è chi si vive una serie di pesanti contraddizioni svolgendo un lavoro di cura come le lavoratrici domestiche e chi infine, come molte donne migranti, per paura di perdere il lavoro, si è sentita costretta a sottostare a violenza e sfruttamento e a mettere a rischio la propria vita nella pandemia per mantenere un reddito minimo necessario al rinnovo del permesso di soggiorno. Ebbene, questa è la condizione di tante di noi, accumulate innanzitutto da settimane di attività di produzione sociale, la cosiddetta cura e riproduzione. E spazio personale pari allo zero. E certo. Triste vida mareado, pensa no timo quinta face, core dia nada encatacho e desespero uma mulher doendo. Minha filha onde bustanha, mãe, bacho bebida, vida triste vida mareado, pensa no timo quinta face, core dia. Joy, desespero, my a restare a casa? A trasformarci di volta in volta in docenti, educatori, babysitter e tutto fare? Questa è la loro idea di cura. La nostra è ripensare tutto e rifiutare, resistere per sottrarci alle violenze della casa e nel lavoro. Abiteremo gli spazi, conquisteremo tempi, perché le scappate di casa vogliono tutto. Un abbraccio fortissimo e stritolante. Io resto a casa, ma... Sono sempre Eleonora, mi sono dimenticata una cosa importante. Io sono insegnante di quelle precarie della scuola che pagate poco e licenziate il mese di giugno. E quindi qual è la situazione da questo punto di vista? Ci chiedono di lavorare da casa, però le indicazioni sono state stranissime, poco chiare. E quindi niente, ognuno ha fatto quello che poteva, come voleva. Io ho cercato di contattare i miei alunni, quindi è diventato anche là un delirio di ragazzini connessi, in pigiama. Non esiste più la privacità, no, come si dice, lo spazio privato, diciamo, non esiste perché tu stai insomma, nel soggiorno, hai dato il tuo numero di telefono vabbè, io personalmente l'ho dato ai più grandi, a quelli di 17, che sono quelli che adesso dovrebbero fare gli esami di Stato per cercare di avere una comunicazione più agile, sapendo che insomma potevano anche capire e rispettare il fatto che non è che avere il numero di telefono gli autorizza a fare non so che, cioè dipende da che, de che. E che ho fatto, insegno francese, per cui con le ragazze di 17 abbiamo fatto il gruppo di yoga in francese. Non me l'ha chiesto nessuno, sì, però io capisco che, anche perché vedo mia figlia, no, che si prepara quando c'ha solo una lezione, diciamo, che fa online, e gli permette comunque di rivedere le facce dei suoi amici, si prepara lei, si mette in gingheri come se dovesse uscire, quindi diciamo è un momento un po' di rottura, no? Rompe l'isolamento, ma soprattutto non so, si mette, diciamo, c'è un appuntamento, si mette, non so come dirlo, però io credo che tutti gli insegnanti che si prendono un po' a cuore, diciamo, la questione, abbiamo un po' provato così, a metterci nel luogo dell'altro, diciamo, di questi ragazzini chiusi a casa. E ovviamente che vi racconto, ci sono ragazzini che sono scappati di casa, perché soprattutto sudamericani, con la madre che lavora negli hotel chiusi, che sono diventati ospedali, o che comunque vive con tanta gente che fa, comunque i ragazzini vogliono uscire di casa, quindi situazioni di questo tipo, gente che non ce l'ha internet a casa e basta, non è che si può fare la scuola non è solo fare i compiti. E niente, in realtà il governo dice che il 26 d'aprile finisce, ma non è vero, perché da Departamento d'Insegnamento già ci stanno dando indicazioni un po' più chiare su come continuare e chiudere l'anno scolastico. Quindi se finora erano delle attività che fai tu come vuoi, ogni istituto si è un po' organizzato, adesso si devono ristabilire i criteri di di, non so come si chiamano in età di valutazione, diciamo, insomma, come mettere i voti, rifare le programmazioni, inventarsi completamente un altro tipo di attività e boh, ognuno di noi deve dire quali sono le famiglie che non si collegano e non è per il 26 aprile, voglio dire, un meccanismo complesso di riattivazione del nostro lavoro fino a fine corso, quindi non è vero che il 26 di aprile ritorniamo alla normalità. E niente, un altro abbraccio grande. Una testimonianza di questa situazione. Secondo me, bisognerebbe cercare di fare un'indagine su come stanno andando avanti queste domande per gli aiuti sociali. Io trovo incostituzionale e contro qualsiasi diritto di pari opportunità questa storia che le donne separate debbano essere sempre condizionate ai redditi dei padri dei figli, a prescindere dalla mia situazione. Io non ne faccio un discorso personale, io ne faccio un discorso di dignità e di giustizia, di giustezza, di diritti civili. Non è possibile che nel momento in cui si va a fare una domanda per gli aiuti sociali, in una condizione estrema come questa, una donna si debba pure abbasare a chiedere il codice fiscale a un ex marito che magari chissà dove cazzo sta, può stare a Palma de Mallorca, come chissà dove, solo perché il padre ha dichiarato la figlia. Basta che il padre dichiari la figlia per non poter mettere genitore unico. Allora, io genitore unico nel mio caso non è perché comunque obiettivamente Viola il padre se la sta crescendo a modo suo, ma se la sta crescendo. Ma non è un fatto legato a me, io penso a quelle che stanno peggio di me, cioè le donne che non solo stanno male, stanno sole, senza un reddito, sono state lasciate, si sono cresciute i loro figli, magari con 200 euro del cazzo al mese, se il padre gliele passa o meno. È proprio un modo di fare incostituzionale, non va bene, dobbiamo cercare di scardinarla questa cosa. Questa è una cosa patriarcale e fascista, che una donna debba, cioè, cumulano ancora i redditi, vanno a vedere ancora, cioè, io che cazzo l'ho tolto a fare dallo stato di famiglia a un padre che se ne va? Che senso ha? Allora, si deve cambiare questo meccanismo, perché sennò ci troveremo che comunque questi aiuti arriveranno solo a chi è scaltro e chi li sa presentare le domande o a chi ha detto il falso. Quelli che ne hanno realmente bisogno probabilmente si possono trovare anche in difficoltà, perché dove sta scritto che... Allora, facciamo un esempio, una casistica. Io ho fatto una figlia con un miliardario. Questo stronzo mi lascia e mi lascia da sola, malata, piena di medicine, con una bambina piccola. Ok, per una donna più giovane. Faccio un esempio. Mi fa storie per darmi pure 50 euro in più oltre i 300 del mensile della figlia. Ma io scusami, ma voglio capire, ma una donna con quei 300 dovrebbe acquistare anche il computer? Allora lo Stato deve essere lui andare dal padre a dire il bonus computer alla tua ex moglie non lo possiamo dare. I soldi del computer a tua figlia, visto che c'hai i soldi, li devi cacciare tu. Non esiste che una donna si deve mettere a chiedere o a inserire il codice fiscale in una domanda. È lo Stato che ci deve pensare a proteggere la donna. creio que te amo, carinho. Chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creio que adoro tus pies, tus unhas, tus dientes. Creio que te amo, carinho. Chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creio que adoro tus pies, tus unhas, tus dientes. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mas hoy creo que te amo, hoy. Mas hoy creo que te amo, hoy. Ciao, sono Virginia, vivo a Napoli e ho 36 anni. Da 32 sono affetta da una forma d'asma cronica che mi ha portata a subire diversi ricoveri nel corso della vita. L'ultimo di questi me lo sono fatta proprio attaccata ad un respiratore per delle complicazioni di una polmonite virale. La questione che mi piacerebbe sollevare oggi travalica i temi di genere, ma riguarda un'intera categoria che in Italia conta più di 2 milioni e mezzo di persone. Molte delle quali sono lavoratori e lavoratrici che durante l'emergenza non hanno ricevuto alcuna tutela né corsie preferenziali per ridurre i rischi di contrarre il virus. Il decreto Cura Italia, infatti, riconosce soltanto ai lavoratori in possesso di certificazione che attesti un rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche l'equiparazione tra assenza dal servizio e ricovero ospedaliero. Dall'altro lato poi ci sono i medici, che ci dicono che i pazienti asmatici sono più a rischio rispetto a tutti i virus respiratori in generale. Quest'ultima affermazione, per esempio, è del dottor Cremona, che è responsabile del servizio di pneumologia e fisiopatologia respiratoria del San Raffaele di Milano. Per noi asmatici può non essere semplice distinguere la difficoltà a respirare provocata dall'asma da un attacco d'asma potenzialmente provocato dal virus. E lo stesso dottor Cremona, infatti, invita tutti i pazienti asmatici a rispettare in maniera diligente tutte le misure precauzionali e soprattutto a limitare gli spostamenti. La verità è che di questo virus la comunità scientifica sa ancora troppo poco per poter dire a una lavoratrice asmatica: tranquilla, nel decreto Cura Italia di te non si parla, puoi venire al lavoro. Ora, io lavoro nel sociale e personalmente ci tornerei volentieri a fare quello che amo. Tornerei ieri a contribuire al benessere delle persone fragili perché mi fa sentire viva. Ma da più di un mese combatto ogni giorno con me stessa e con la paura di tornare attaccata a quel maledetto respiratore. Questa quarantena però è riuscita a tenere fermo solo il mio corpo, perché il mio cuore e la mia testa si sono attivati da subito. È un mese infatti che, insieme ad altri volontari, presto ascolto le persone sole al telefono. Provo ad accoglierne ansie e paure e a offrire sollievo per quello che posso. Solo in questo modo riesco a non far spegnere la mia passione per quello che faccio, nonostante la paura. Ok, la tua esperienza di quarantena come occupante casa. Allora, mai come questa volta rivendico in super felicità la mia occupazione. Perché se oggi non avessi avuto questa occupazione, io non so che fine avrei fatto poi con questa quarantena. Perché quei pochi soldi che prendo col reddito di cittadinanza io li posso veramente dedicare alla cucina e a preparare le cose per il mio bambino, le torte, i dolci, e posso mettere il piatto a tavola e mangiare cose ovviamente decenti e non le uova tutti i giorni. Allora, io sono un po' bipolare nella storia della quarantena, perché c'è una parte di me che sta bene, nel senso che io facendo le bancarelle e vivendo comunque un momento difficile con queste persone che hanno le piazze delle bancarelle a Napoli, ero, diciamo, entrata in un periodo di depressione, quindi poi arrivata la quarantena sono stata costretta a stare a casa. Io sto bene, non ho più la depressione. Sto troppo bene in casa, nel senso che cucino, faccio i compiti con mio figlio, la mattina mi sveglio, la didattica, quella là che si fa adesso con le maestre. Problemi a fare la didattica? Allora, Roberto, io ho dovuto, mio figlio è un bambino che ha bisogno di regole, quindi io la mattina faccio proprio come se stessi a scuola, ci svegliamo alle 9, facciamo i compiti, tutto quello che c'è da fare. È più difficile perché ovviamente io sono maestra ma non insegno, quindi non ho la metodologia che hanno le maestre, quindi mi sono dovuta improvvisare. E per i bambini ovviamente è più difficile passare, specialmente lui sta in prima elementare, dallo stampato al corsivo, allo stampatello, è una cosa che sta facendo con me ed è comunque difficilissimo, quindi il bambino sta avendo difficoltà, però lo sta facendo. Per vivere in occupazione anche per lui è una fortuna, perché comunque nel palazzo ci sono quattro bambini, giocano a nascondino, si picchiano, fanno pace, si vogliono bene, si litigano, quindi in questo senso l'occupazione ha salvato anche i nostri bambini, perché magari te la fanno ogni tanto la domanda perché non possiamo uscire, però poi se lo dimenticano perché hanno ricreato comunque l'ambiente all'interno della casa. Stessa cosa per me, io ho trovato comunque quest'area, ma a casa mia, cioè, che cosa mi è successo invece, la stranezza che mi succede, che io scendo ogni 10 giorni per fare la spesa e quando scendo mi dissocio, entro proprio in un brutto trip. Vedo tutti quanti con le mascherine. Questo è il mio trip brutto, che vedo la gente con le mascherine, tutti con le distanze, e questo mi fa vivere un momento di depersonalizzazione. Io mi depersonalizzo, mi sento di vivere in un film. Sto male, mi viene l'ansia, devo scappare, faccio le spese proprio senza senso, spesso compro cose perché sto così male, anche a raccontarlo. E paradossalmente mi è più difficile uscire che stare in casa. Sta diventando una normalità stare chiuso. E questa è una cosa che mi spaventa, perché io, essendo un animale sociale, essendo per le persone che mi conoscono, lo sanno, locali, serate, oggi io sto bene in casa, non è una cosa comunque molto sana. Intervista a un occupante casa. Come stai vivendo la quarantena? La quarantena, allora diciamo che per me una vera e propria quarantena non c'è, più che altro perché stando in casa, stando nel palazzo e stando su un piano dove ci sono comunque persone che hanno dei disagi, delle disabilità maggiori rispetto ad altri, uno cerca più che altro di rendersi utile e di instaurare una solidarietà e una collettività rispetto, diciamo, anche alla situazione che stiamo vivendo. Sinceramente, io sono una persona che sta sempre tra la gente, sempre in attività e speravo di potermi rilassare un attimo, cosa che non c'è per tanti motivi e allo stesso tempo cioè mi sono sentita un attimino fortemente in difficoltà rispetto al silenzio subito in questo periodo. Un silenzio che secondo me è fatto di paura, di imposizione, di costrizione e mi sono sempre posta dal primo momento la domanda nel momento in cui noi siamo dentro, quindi per me sono stati domiciliari dal primo istante, fuori cosa succede? Fuori c'è il potere, comunque fuori ci sono le guardie, fuori ci sono i vigili. E nel momento in cui mi sono trovata magari a dover fare la spesa collettiva per il palazzo, mi sono trovata in situazioni che comunque dovevo per forza rispetto agli altri scendere per fare servizi vari. Ho visto anche per strada una fortissima repressione, ma ha dato più la sensazione come di continuare a voler incutere paura senza però risolvere i problemi reali, anche perché io questa situazione del Covid, 19, diciamo che ho avuto il sentore già da dicembre. Ho visto che i tempi si sono allungati, allungati fino a che poi la situazione è diventata insostenibile e quindi dal mio punto di vista è stata anche voluta come quarantena. Il dopo, secondo me, sarà una situazione da il post-guerra, perché io la vedo come la terza guerra mondiale e ci sarà il post-guerra, quindi ci saranno le varie egemonie, continuerà la situazione della sanità pubblica che poi alla fine viene tutto classificato, cioè rimarranno sempre i poveri, sempre più poveri, i ricchi, sempre più ricchi, con disagi da un lato, mentre dall'altra parte un'egemonia dei pochi sempre più forte. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica un poco, afónica un poco y crónica. Te enferma de forma crónica. Primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe, te informa con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers se transforma. Y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila. Te forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios, de tan histérica y tónica. In questa prima parte di Le scappate di casa avete ascoltato dei contributi che, sebbene fossero legati più ai primi giorni della quarantena, per noi era molto importante far trasmettere, per far arrivare le voci di tutte le persone che ce le hanno mandate. Ma non rattristatevi, nonostante stia agli sgoccioli la fase 1, noi restiamo anche nella fase 2, non vi libererete così facilmente di noi. E in attesa di sapere che cosa ne sarà di noi in questa fase 2, brillantemente descritta anni or sono da Freud come la fase anale, e io aggiungerei la fase anale non consensuale, noi continueremo a trasmettere e continueremo a mettere al centro le nostre voci per rompere questo isolamento. Adesso vi lasciamo con il contributo di una compagna che ci racconterà il nostro primo maggio transfemminista. Successivamente Rosaria da Amsterdam, poi Deborah e infine un classico della poesia femminista che ci ricorda che per loro non era previsto che sopravvivessimo, eppure siamo ancora qua, a sfregio. Quindi Audre Lorde con Litania per la sopravvivenza. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. esto es lo que hay para decir. Directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, pasa. Asado, nefasto, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Primo maggio transnazionale. Lo sciopero vive nelle lotte. Anche da Napoli ci siamo uscite unite al primo maggio transnazionale e abbiamo portato in strada, diciamo, il nostro sciopero attraverso una serie di messaggi che abbiamo riempito noi, ma che abbiamo lasciato anche riempire a tutte le donne e soggettività non normate che stanno vivendo insieme a noi questa fase di quarantena. Ci siamo organizzate per quartieri e abbiamo sin da giovedì iniziato ad attacchinare nei diversi spazi vicino ai supermercati, vicino ai punti dove, diciamo così, le persone continuano a poter circolare. Ahimè, in questa fase in cui non c'è permesso di andare in giro, e abbiamo ricordato che per noi in questa fase l'emergenza sanitaria diventa sempre di più un'emergenza economica, diventa sempre di più un'emergenza che ci mette di fronte a una serie di difficoltà, dal lavoro di cura al lavoro di casa, che ormai, diciamo, sono diventati un unisono e i cui tempi e i cui carichi diventano sempre più lunghi, a chi ha dovuto continuare ad andare a lavorare in cosiddetta trincea, no? Mettendo a rischio i propri corpi, chi invece è stata costretta a rimanere a casa doppiamente proprio per problemi di salute che a causa di questo virus non le permette più di poter neanche fare cose basilari come poter andare a fare la spesa perché immunodepressa. Molte di noi in questa fase hanno sostenuto le spese solidarie, abbiamo continuato ad attraversare la città in queste fasi di Covid-19, abbiamo costruito spazi in qualche modo di sorellanza attraverso la rete, abbiamo cercato appunto che nessuna di noi restasse sola in questa fase. Il primo maggio è stato ancora una volta un primo maggio di lotta, proprio per questo, per ribadire che non siamo sole, siamo unite, vogliamo un reddito di autodeterminazione, vogliamo che le strade sicure le continuino a fare i corpi delle donne. Come on girls, come on girls, come on girls, come on girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Es lo que siento yo. Yo voy a florecer y no desaparece. La huepa, huepa, como te enseñaron en la calle. La huepa, huepa, yo voy a florecer y no desaparece. La huepa, huepa, como te enseñaron en la calle. Ya saqué mi conclusión porque hice esta canción pa' todas las mujeres. Care sorelle, vicine e lontane, oggi ho incontrato la mia panza, una figura serena, ma allo stesso tempo risoluta. L'ho incontrata nella vasca, proprio lì, perché devo dirvi che in questo tempo maledettamente incerto, non che prima abbia avuto chissà quali certezze, sto frequentando molto la vasca da bagno, il buco dove posso ritrovarmi un po' sola. Galleggio e cerco di alleggerire il peso di questi giorni. E l'ho incontrata, lì. La mia panza affiorava, a pelo d'acqua, tonda e lucida, bella, fresca come una rosa. Eppure gli anni ci sono, non li nascondo. Non mi sono accorta di quanto fosse cresciuta, voluminosa e prepotente. L'ho guardata e vi devo dire che per la prima volta me ne sono compiaciuta. Non ti sembra di esserti allargata? Chi ti ha dato il permesso? Le ho detto. E lei per tutta risposta. Che c'è? Hai paura? E di cosa? Io ho paura. Siamo oneste. Come mi ficcherai in quei vestitini stretti stretti che hai, nelle gonne e nei pantaloni? Dovrà rifare il guardaroba? Sorrideva. Mentre lei parlava, io l'accarezzavo e sotto le dita la sentivo tonda e liscia. L'ho controllata per anni, per l'esattezza tutta una vita. E lei tesa e senza personalità, è stata una presenza dominata, senza carattere. Cos'è successo? Si è ripresa lo spazio che le avevo negato, allargandosi. Lei in verità è stata onesta, mi ha mandato qualche avvisaglia, una piega sui fianchi che io senza darci molto peso ho nascosto, arricciando la maglietta proprio lì, al girovita. In verità, a parte la spesa per ricoprirmi, cos'è che mi fa paura? Forse mi sto lasciando andare? No, no. Questa panza è l'unica certezza che ho di questo tempo, del mio corpo. Un corpo guardato, cercato, violentato, accusato, nascosto, immaginato. Prima di tutti dalla sottoscritta. E se il cuore è al centro di tutto, per i giapponesi invece nella panza. E allora più larga è e più accoglie. E io ci metterò dentro di tutto. La strafottenza e perché no, il coraggio e la voglia di essere così come sono ora. E finita questa cazzo di pandemia, porterò in giro la mia panza orgogliosamente e chi se ne fotte. La luna llena entra por la ventana y alumbra las ganas de verte sin nada. Esa piel morena me pone inquieta, te quito la ropa, mírame completa. Dame el veneno que tiene tu boca, decime al oído lo que te provoca. Tocar mi cintura serpiente y la temperatura que pone caliente el ambiente. Bésame, bébeme como guitarra, tócame, escríbeme poemas en la piel con tu lengua. Deja que te envuelva con mi fuego interno y te queme hasta que te disuelvas. Espero hasta que vuelvas a enrollarte entre mis piernas, a fumarnos como hierba, hasta que la sangre hierva. Bailemos la cumbia en la cama, yo muevo las caderas y tú las atrapas. Muérdeme la boca, bésame la espalda, no durmamos nada hasta que salga el alba. Bailemos la cumbia en la cama, yo muevo las caderas y... Memorie arrabbiate di una vagina. Sono nata donna e natura vuole che ogni donna abbia una vagina, una sola per fortuna. E dico per fortuna perché questa consiste nel motivo principale per il quale sulla donna sono stati caricati pesi e fardelli. Quante ne ha passate la vagina e quante ne ha sentite, quante domande indiscrete, quanti sguardi indagatori, quante offese mortificanti. Se non arrabbiate, come possono essere le sue memorie? Come se non così? Quali se non queste? Se non sono mai stata penetrata, sono una vagina incompleta e sfigata. Se lo sono stata e chissà quante volte, sono una vagina ormai addomesticata e disponibile a tutti e a tutto. Se qualcuno ha abusato di me, se sono stata in qualche modo violata, sicuri che non me la sono cercata? Se sono una vagina tradita dal compagno, avrei dovuto e potuto fare di più o farlo meglio. Se sono una vagina che tradisce il compagno, mi rendo passibile di qualsiasi sfogo d'ira e di gelosia. Se scendo in piazza a protestare contro la violenza che su di me si scaglia, farebbe bene a pensare ai miei figli, si sa, una vagina che ha generato deve pensare solo ai figli. Se resto in casa, tra rassegnazione ed amarezza, che non vada poi a lamentarmi in giro. Se frequento la chiesa e partecipo alla messa, ci vado sicuramente per accalappiarmi il giovane parroco. Se ne sono lontana, figurati. Avrò tutt'altro da fare. Se sono una vagina colta e intelligente e consapevole, bisogna tenermi d'occhio, anche con le maniere forti. Se non lo sono, con me si può fare quel che si vuole, anche con le maniere forti. Se raggiungo obiettivi professionali, se realizzo i miei sogni, chissà come ci sono arrivata. Se non accade, brutta come sono, cosa mi aspettavo? Se non ho problemi a creare relazioni e a frequentare per i più svariati motivi persone del sesso opposto, sono una vagina vivace, stravagante e le compagne degli uomini che frequento dovrebbero stare attente. Se allaccio rapporti esclusivamente con altre donne, sono certamente repressa, imbranata o ci può stare, ho fatto voto di castità. Se sono coperta da gonne e minigonne, sono una vagina sfacciata e tentatrice. Se a coprirmi invece sono i pantaloni, oscillo tra la superata e la maschiaccia. Se mi dimostro simpatica e disinvolta, non aspetto altro se non una notte di sesso. Ovvio. Se resto sulle mie e non do confidenza, chissà di che soffro. Ovvio. Se mi sposo e divento mamma, ho ceduto al sistema patriarcale. Se sono single e vivo bene lo stesso, sono egoista e cinica. Difficile, difficile la vita da vagina. Difficile anche sapere dove sono i papà, i fratelli, i sacerdoti e gli uomini politici, visto che di donne in politica ce ne sono ben poche. Quando vengono violati, non considerati e sminuiti i diritti delle donne, che comunque non si stancano di lottare. E soprattutto perché ci viene da chiedere, perché la donna ha sempre fatto paura? Perché la vagina ha sempre fatto paura? Perché qualcuno ha ancora vergogna o timore nel chiamarla così come si chiama? Vagina. Perché la vagina è passata con facilità da mito a carne da macello. Povera vagina, vittima fatta passare per carnefice, distrutta e uccisa e fatta passare per colpevole, intimorita e offesa e fatta passare per causa di ogni male, di ogni peccato e di ogni oltraggio commesso dall'uomo, eppure a soffrire, a subire, a rinunciare, è stata sempre lei. E credo che il problema abbia origini profonde e serie, come lo stupro e l'uso, perché diventa uso brutale e drammatico che si fa della donna. Per questo devono essere sostenuti progetti scolastici e non che mirano alla formazione, alla crescita di persone rispettose. Per questo ai bambini e alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi deve essere insegnata la parità, la cultura della parità, che non vuole obblighi e non vuole impedimenti che provengano dal sesso. E per questo, per tutto questo, un atto violento a carico di una donna non deve mai, mai essere trasmesso e riportato come se fosse normalità o peggio, come se non fosse importante e drammatico. Ogni vita spezzata, straziata, distrutta, negata lo è. E davanti a una donna che piange, che soffre, che muore,